viva sembravo forti. Grave d'età soverchia, il frenni questa ampia contrada io lascio. Il re la fida a più gagliarda mano, su che il filo a me. Fatto premier del mio novello grado, la pace sia fra l'Inca e noi firmata, e del monarca Ibero al venerato impero si china. Città alle porte fian quindi a suoi dischiuse, un dolce penno tu promettevi a render più solenne la pace. Al sirlo è ver, ma di Meneo ancor tempo non parmi. Entro quel seno con fatale mestizia il tenda pieno. Oh! amico pensi, ti posi un mondo al piede, un mondo al piede. Ma non s'appaga l'anima, chi ad altro ben sospira. O senza cuore dal cielo, dal mondo al popolo, il popolo a me. O senza il cuore, il cuore dal cielo al mondo è poco, è poco a me, il mondo è poco. Oh! Mano a questi oppressi e gli regnanti e nubi, popoli orcati, a cui soltanto avanza un'ultima speranza, il vivo amor che nutre per te Gusma. Thank you. Nella polvere esser puoi sì fiero ed empio il mio sangue i giorni miei ma lo so Oh, fui all'armi, vengo in dono l'Italia apparito, il tuo capo li scure fuggito, al mio grande appoggino, no, no, non potrà. Thank you. divise. Bella sembrata con senso militar, questa che orrega è la sentenza, manca il nome tuo soltanto. È condannato qual ribellezza moro, eccomi al becci, al rogo fia condotto. Sono la cosa. Per chi? Per me. Signori, fato di Zamora cangiar tu puoi, ma solo a un prezzo. Domanda il sangue mio. Non la tua destra. Seguimi all'ara e compiuto l'imen, giuro che salvo andrà lontan da questi re. Sento il decreto, credo. Crudel! San Moro fia spento! cinto di spane vesti. Ed ora, ed egli forse ne raggiunge. Thank you. Thank you. storie le pugne. Ecco la sposa di Gusmano, al tempio ella mi coverrà. Apria dal nodo, come fra poco il ciel, voi testimoni or siate. Fausto nodo, onde quest'alma, te trionfiavezza le gioie soltanto, e tu tenebriata. Thank you. Benedire